sedere sotto i libri e sopra il banco l'ombra del professore, dei tanti appelli dimenticati, e tu metro osservi i suoi capelli bianchi, inspiri ringhiotti i tuoi sbadigli che fioriranno più tardi nei giardini tra bei sorrisi e sguardi grandi. Con sicurezza, e quando ti guarda fisso i tuoi silenzi.